Sì, assolutamente sì. Ovviamente il fatto che il premio venga poi ripreso da quotidiani, radio, insomma dai media, fa sì che ci siano che chiamano, che non hanno mai chiamato prima, no? Quindi sicuramente il numero di contatti aumenta e nel caso tu abbia disponibilità di prodotto aumentano anche le vendite, quindi cioè, c'è anche il risvolto ovviamente commerciale dei premi, di questi riconoscimenti. Dalle rotture di scatole, come dici tu, non è assolutamente una rottura di scatole, anche perché, come ti ho detto, io sono in ufficio che è nel pub di un amico qua a Tortona, quindi insomma sto lavorando praticamente, per cui non sono Me ne rotture di accorgo, si scatole. direbbe, insomma, no? Esatto. È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Vedi che lo sai, così Tra l'altro, sai che alcuni chi ti segue, diciamo, su Internet, su Facebook, no, ha imparato una serie di intercalari, insomma, no? A me hanno perseguitato un paio dei tuoi, che sono te dico yes, con la G che non era malvagia, ed anche ma non dirci niente, va, insomma, che era anche simpatica anche questa qua, al di là anche della tua stima, come dire, dir poco stima per Bruce Springsteen, no? Sì, beh, quelli lì sono modi di dire che nascono poi. Ti dico, yes, veramente è mutuato da un amico, Michael Polensky, che è stato qui da me, che adesso lavora fra l'altro per un nostro cliente che è la Beer United, distributore negli Stati Uniti. Lui è stato qua al birrificio Montegioco da studente, quando studiava a Pollenzo, l'Università di Scienze Gastronomiche, e lui aveva questo slang, come dire, italo-americano, no? Allora lui diceva questo te dico yes, molto più bravo di me, molto più bello anche. E da lì l'ho preso ed è diventato questo miscuglio, un po' come la birra, no? Questo miscuglio di lingue, di cose, di personaggi. Invece il ma non dirci niente va è quello che si dice normalmente quando si fa una discussione, magari dalle nostre parti, un intercalare, come dire, ma sì, ma lascia stare, non stare lì a preoccuparti, no? Lascia correre, ecco, quello lì. Invece, vabbè, il boss è tutta un'altra storia, lì nasce ho dovuto persino imparare l'inglese, perché ho voluto, non dovuto, imparare l'inglese per sapere cosa raccontava di preciso questo metto. Vabbè, poi sono cose, sai, il rock è rock, ok? Il boss, secondo me, è la massima espressione, ma qui si va nei gusti. Ti ha mai ispirato una birra o il nome di una birra, il boss? Anche più di una, solo che lì ci sono battaglioni di avvocati. Se tu fai una cosa del genere, sei finito. Più di una, anche una che ho fatto dedicata proprio al suo ritorno in Italia l'anno scorso, che poi ho cercato in qualche modo di fargli avere, non ci sono riuscito, ma non mollo mica. Adesso quest'anno ritorna, quindi ci riprovo. Come le avresti chiamate? Dai, questo lo possiamo dire senza incorrere in copyright, no? Guarda, se io avessi dovuto usare una delle canzoni del boss in quel momento lì, l'avrei chiamata Glory Days, perché comunque è una canzone da ballare, da cantare, saltare, quindi l'avrei chiamata così. Però no, non si può, ripeto, quindi non si può usare niente di quello che è stato toccato, usato, scritto, fatto dal boss, quindi Quindi per alla ovvi fine motivi. come l'hai chiamata la birra? No, è stata una runa special edition, no, Friends edition, special Friends edition, così era scritto sull'etichetta, dove comunque ho usato l'immagine della Rovale, che poi è il mio amico Pigi, è un po' il nostro muro qui nella nicchia, ed è rimasta così, ecco, è stata una cotta che ho fatto, Ecco, quest'anno riproviamo. un altro tormentone è proprio la parola nicchia, no? Mutuata anche Ma guarda, dal questo suo collega Bruno Carilli, se non sbaglio, che salutiamo ovviamente se ci ascolta. assolutamente sì. Questa parola nasce dal